Adesso magari in breve cercheremo di ragionare sulle prospettive per l'abolizione delle carceri in genere negli Stati Uniti e per magari le prospettive per rendere sempre più visibili magari le lotte all'interno del carcere e all'esterno del carcere portate avanti da donne. So we're seeing in the US, even though there's 2.4 million people in prison, we're seeing like movements to not just reform prisons or make like better conditions or to let some people out, but movements La storia dell'abolizionismo negli Stati Uniti è diciamo, molto spezzettata, ci sono stati diversi movimenti e poi si sono persi, poi sono riapparsi, però specialmente negli anni 70 ci fu veramente l'inizio di un discorso netto per l'abolizione del carcere, però non venne connesso con le carceri delle donne. Infatti, no, le donne stesse che si misero in rivolta a Bedford Hills, come abbiamo menzionato, it was Bedford Hills, right, where they revolted that you were talking about the Christmas tree No, visit, the or the Christmas Christmas. tree riot happened in a California Oh, women's California prison. Women's Prison. Allora, la rivolta negli anni 70. Non fu a Bedford Hills che è in New York, ma nella California, che scoppiò a causa di una soppressione di visite durante Natale. Allora le donne si rivoltarono e fecero a ferro e fuoco del carcere. E poi, mentre erano in cella divise una dall'altra, cominciarono comunque a riuscire a comunicare in qualche modo e a stilare un documento in cui cioè, si formulava una piattaforma politica che dichiarava che chiunque avesse commesso qualsiasi crimine non dovrebbe stare in carcere per più di 5 anni. Quindi avevano già un senso in pratica abolizionista, cioè nel senso di un limite. Oltre cui non si poteva andare, è un limite molto breve perché altrimenti è impossibile reintegrarsi nella società. Infatti, è proprio così, come sappiamo già. Però non ci fu fino a recentemente una connessione tra il movimento abolizionista e le lotte delle donne in carcere. E questo non fu fino a più recente. Infatti, recentemente. Le donne non sono più consapevoli del movimento abolizionista perché ne sono più integrate a esso, perché prima non lo erano, perché emarginate, come anche in pratica storicamente nei movimenti di sinistra in generale, cioè per quanto riguardava le donne stesse, quindi anche nelle lotte per l'abolizione del carcere. E però di questi tempi adesso non solo, cioè sono più integrate nel movimento stesso abolizionista, però rivendicano anche il fatto che le loro condizioni, le loro lotte stesse, le loro testimonianze vengono ignorate ancora e in pratica lottano anche all'interno del movimento per essere ascoltate, per mettere alla luce tutte queste cose che loro hanno da dire e anche per proporre delle cose nuove per quanto riguarda l'abolizionismo stesso, però ne fanno parte adesso integrante del movimento e adesso torniamo a Vicky che ce ne parlerà di più. Mi ero dimenticato di aggiungere che le donne che sono in lotta per l'abolizione del carcere non entrano in questa lotta portando avanti un discorso di vittimizzazione, bensì un discorso di trasformazione della società, cioè di attiva trasformazione della società, in cui ovviamente anche le loro sorti, le loro esperienze hanno molto da insegnare al movimento stesso, e quindi portando le loro esperienze all'interno del movimento è anche un modo di cambiare la società stessa, perché cambiano anche l'atteggiamento di molti che sono all'interno di questo movimento, che magari non capiscono le condizioni specifiche che devono sopportare le donne nel carcere. Allora, il movimento abolizionista ovviamente è di fronte a una grande sfida perché si tratta di affrontare un complesso di industrie, di interessi immenso e quindi cioè, si parte anche da quelli che magari fabbricano gabinetti fino a quelli che danno il cibo, che preparano il cibo per i carcerati, le carcerate, quelli che magari fabbricano i letti, non solo ovviamente i secondini che hanno il lavoro, cioè in pratica ci sono tantissimi interessi in gioco che è molto difficile combattere per l'abolizione del carcere. Poi dall'altro lato c'è ovviamente il senso di sicurezza personale che viene sempre a galla, come per esempio nella presentazione che abbiamo citato alla libreria Blue Stockings qui a Manhattan, in cui anche in un ambiente diciamo di sinistra, diciamo, mettiamola così, in cui c'è una libreria anarchica in pratica, ci sono persone che mettono in questione la sicurezza e dicono: beh, come facciamo se non ci sono le carceri? Dove mettiamo la gente che magari ci può uccidere? E Vicky dice che bisogna essere molto sensibili a queste questioni perché sono delle questioni che sono palpabili, che hanno a che fare con l'esperienza stessa della gente e che non si possono trascurare. Però bisogna rispondere a questo, non, cioè in questo ambiente, in questa società in cui si parla della questione come in pratica bianco e nero, o sbatti qualcuno in carcere oppure è libero, bisogna far vedere alla gente che ci sono alternative al carcere e ce ne sono moltissime, di cui purtroppo non possiamo parlarne adesso, sarà magari per un'altra intervista, sarà un'altra volta, però. Non, cioè, si deve cercare anche di convincere la gente stessa della sensatezza di non avere carcere, cioè di risolvere questioni sociali con un sistema sociale idoneo ad affrontare i problemi invece di sbattere le persone in una gabbia. E in pratica è simile al movimento contro la schiavitù. Ovviamente quando la schiavitù era, diciamo, molto popolare, ci si chiedeva: ma come faremo senza gli schiavi? Beh, ovviamente si poteva fare benissimo senza la schiavitù, e lo stesso si può dire per quanto riguarda il carcere, soltanto che la grande sfida è proprio dover affrontare dei grandissimi interessi industriali, politici, eccetera, e anche cioè che è immischiata questa paura che molti hanno per quanto riguarda la propria incolumità, la propria sicurezza, anche magari giustificabile in una società in cui, specialmente questa negli Stati Uniti, dove è facile anche essere uccisi per ben poco. Allora, io le ho chiesto, cioè c'è così tanto di cui potremmo parlare, purtroppo il tempo stringe, vorrei anche cioè, parlare con lei per quanto riguarda alternative, come per esempio la giustizia trasformativa, come si chiama qui negli Stati Uniti, e altri concetti, altre pratiche che si possono avere in alternativa al discorso di carcere o libertà, ma adesso cioè, le pongo la domanda di com'è che si è coinvolta nel movimento abolizionista, e lei, cioè, per capire questo, racconta come è cresciuta a Queens ed è andata in un high school, cioè il liceo, diciamo, una cosa ben diversa qua negli Stati Uniti, il liceo, perché è obbligatorio per tutte e tutti fino all'età di 18 anni, e quindi lei era in un liceo a Queens, in pratica, che è conosciuto come un tipo di scuola che serve da filo conduttore dalla scuola al carcere. So these are perfect recruiting grounds for gangs, you know, because when you're faced with like being locked up in a school that's kind of like a prison all day. In pratica, questi tipi di scuole, questi tipi di high school sono fatte apposta per in pratica incastrare adolescenti diciamo, in un sistema in cui andranno a finire in carcere. Come mai questo? Perché Si tratta di scuole che sono molto povere, in pratica è come stare in carcere nella scuola stessa, sono dei luoghi di contenimento di adolescenti e come tali non c'è quasi nessuna prospettiva per gli adolescenti che ci vanno, non si insegna quasi niente. In pratica la sensazione è che uno non ha nessun futuro e quindi quando si apre l'occasione tipo vuoi spacciare questo o quest'altro e fare un paio di centinaia di dollari, ovviamente la tentazione è enorme e molti, specialmente molti, non tante, ma molti, dei suoi coetanei. In pratica, per fuggire da questa prospettiva di povertà, di mancanza di futuro anzi negato, facevano questo o quest'altro lavoretto illegale e magari finivano anche per essere reclutati da bande criminali. E così, uno per uno, lei si vedeva molti dei suoi amici, coetanei, magari anche qualcuno con cui era coinvolta. In maniera più intima, tutti sbattuti in carcere in una maniera o nell'altra, per qualsiasi ragione. Allora era inevitabile che lei si familiarizzasse con la questione del carcere, perché ovviamente era circondata da tantissimi casi di coetanei che vennero a dover affrontare il carcere. Inoltre, lo stato di New York. Non soltanto da pochissimo per quanto riguarda l'educazione, ma da tantissimo invece per mantenere carceri in cui, cioè in pratica sono delle celle fatte apposta, c'è un'intera isola, anzi Rikers Island, che in pratica è un carcere, un'isola, dove si mandano le persone che non possono permettersi di pagare la multa, adesso non mi ricordo più il termine in italiano, ma c'è un tipo di multa che devono pagare per riuscire a tornare in libertà prima ancora di essere portati in tribunale o portate in tribunale. Ebbene, se non riescono a pagare questa multa, vengono messi in carcere, vengono messe in carcere, e dato che si trovano in comunità povere, con genitori poveri, più sovente, le comunità povere sono quelle più colpite, per quanto riguarda adolescenti che finiscono in carcere preventivo, diciamo, oppure perché non hanno, i soldi a sufficienza per poter uscirne mentre aspettano di essere portati in tribunale per una sentenza.